لقمان. بسم الله الرحمن الرحيم. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Questi sono i versetti del libro saggio. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Guida e misericordia per coloro che compiono il bene. Alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Che assolvono all'orazione e pagano la decima e fermamente credono nell'altra vita. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Che seguono la guida del loro Signore. Questi sono coloro che prospereranno. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Tra gli uomini vi è chi compra storie ridicole per distogliere la gente dal sentiero di Allah e burlarsi di esso. Quelli avranno un castigo umiliante. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Quando gli si recitano i nostri versetti, volge le spalle superbo come se non li avesse sentiti, come se avesse un peso nelle orecchie. Dagli annuncio di un doloroso castigo. Innal ladhina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun na'im. Coloro che credono e compiono il bene avranno i giardini della delizia. خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. Dove rimarranno in perpetuo. Questa è in verità la promessa di Allah. Egli è l'eccelso, il saggio. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. Ha creato i cieli senza pilastri che possiate vedere, ha infisso le montagne sulla terra, che altrimenti si sarebbe mossa, e voi con essa, e l'ha popolata di animali di tutte le specie. Abbiamo fatto scendere un'acqua dal cielo e abbiamo fatto germogliare ogni tipo di magnifica specie di piante. هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Questa è la creazione di Allah. Mostratemi allora quello che hanno creato gli altri che adorate all'infuori di lui. No, gli ingiusti sono in errore palese. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Certamente fummo noi a dare la saggezza a Luqman. Sii riconoscente ad Allah. Chi è riconoscente lo è per se stesso. Quanto a colui che è ingrato, in verità Allah è colui che basta se stesso, il degno di lode. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. E ricorda quando Luqman disse a suo figlio: Figlio mio, non attribuire ad Allah associati. Attribuirgli associati è un'enorme ingiustizia. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْ أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Abbiamo imposto all'uomo di trattare bene i suoi genitori. Lo portò a sua madre di travaglio in travaglio e lo svezzò dopo 2 anni. Sii riconoscente a me e ai tuoi genitori. Il destino ultimo è verso di me. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا اتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. E se entrambi ti obbligassero ad associarmi ciò di cui non hai conoscenza alcuna, non obbedire loro, ma sii comunque cortese con loro in questa vita, e segui la via di chi si rivolge a me. Poi a me farete ritorno, e vi informerò su quello che avrete fatto. Ya bunayya innaha in takumith qala hab من خردل فتكن في صخرة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. O figlio mio, anche se fosse come il peso di un granello di senape nel profondo di una roccia o nei cieli o sulla terra, Allah lo porterà alla luce. Allah è dolce e ben informato. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. O figlio mio, assolvi all'orazione, raccomanda le buone consuetudini e proibisci il biasimevole e sopporta con pazienza quello che ti succede. Questo è il comportamento da tenere in ogni impresa. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Non voltare la tua guancia dagli uomini e non calpestare la terra con arroganza. In verità Allah non ama il superbo vanaglorioso. وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. Sii modesto nel camminare e abbassa la tua voce. In vero, la più sgradevole delle voci è quella dell'asino. أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. Non vedete come Allah vi ha sottomesso quel che è nei cieli e sulla terra e ha diffuso su di voi i suoi favori, palesi e nascosti? Ciò nonostante vi è qualcuno tra gli uomini che polemizza a proposito di Allah, senza avere né scienza, né guida, né un libro luminoso. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. E quando si dice loro: seguite quello che Allah ha rivelato. Rispondono: seguiremo invece quello che abbiamo trovato presso i nostri avi. Insisterebbero così anche se Satana li chiamasse al castigo della fiamma? وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. Chi sottomette il suo volto ad Allah e compie il bene, si afferra all'ansa più salda. In Allah è l'esito di tutte le cose. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Quanto a chi è miscredente, non ti affligga la sua miscredenza. A noi faranno ritorno e li informeremo di quel che avranno fatto. Allah conosce perfettamente cosa c'è nei cuori. Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila azabin ghalidh. Diamo loro godimento effimero per un po' di tempo e poi li spingeremo con forza nel castigo terribile. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Se domandi loro chi ha creato i cieli e la terra, certamente risponderanno Allah. Di lode ad Allah. Ma la maggior parte di loro non sanno. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. Appartiene ad Allah tutto quello che è nei cieli e sulla terra. Allah basta a se stesso, è il degno di lode. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Anche se tutti gli alberi della terra diventassero calami e il mare e altri sette mari ancora fossero inchiostro, non potrebbero esaurire le parole di Allah. In verità Allah è eccelso, saggio. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. La vostra creazione e resurrezione per Allah è facile come quella di una sola anima. Allah è l'audiente, colui che tutto osserva. Alam tara anna Allaha yuliju al-layla fin-nahari wa yuliju an-nahara fil-layli wa sakhkhara ash-shamsa wal-qamara وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. Non hai visto come Allah ha fatto sì che la notte compenetri il giorno e il giorno compenetri la notte? E come ha sottomesso il sole e la luna, ciascuno dei quali procede nel suo corso fino a un termine stabilito? ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Ciò in quanto Allah è la verità, mentre quel che invocano all'infuori di Lui è falsità. Allah è l'Altissimo, il Grande. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل Non hai visto che è per grazia di Allah che la nave solca il mare affinché vi mostri qualcuno dei suoi segni? In verità in ciò vi sono segni per ogni uomo di perseveranza, di riconoscenza. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. Quando li copre un'onda come fosse tenebra, invocano Allah e gli rendono un culto puro. Quando poi Allah li mette al sicuro sulla terra ferma, alcuni di loro seguono una via intermedia. Solo il peggior traditore, il peggior ingrato, rinnegherà i nostri segni. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an waladihi wa la mawludun huwa jazin 'an walidihi shay'a inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Uomini, temete il vostro Signore e paventate il giorno in cui il padre non potrà soddisfare il figlio, né il figlio potrà soddisfare il padre in alcunché. La promessa di Allah è verità. Badate che non vi inganni la vita terrena e non vi inganni su Allah l'ingannatore. Inna Allah indahu ilmus sa'ati wa yunazzi ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. In verità, la scienza dell'ora è presso Allah, colui che fa scendere la pioggia e conosce quello che c'è negli uteri. Nessuno conosce ciò che guadagnerà l'indomani, e nessuno conosce la terra in cui morrà. In verità Allah è sapiente, il ben informato.